logică, legite, metrice, clasice, predică, chiar așa nu statică, tatică, formule magice, pratică, testa sa cu mesadică, nu voglio satire, sature, dirisa, disterică, che sono patetică, vogliono solide, solide, robe monotone, merda valabile, vincere facile, ai fama fragile, fame irrefrenabile, rischi disordine, ordina l'ordine, nell'ordine del rap, nobile, mobile, come vortice al vertice, curini, immagini al margine, noi siamo all'apice, al calice, andiamo il pollice, l'indice, indichiamo robe croniche, critiche, persone ipocrite, logiche, chiacchiere, volano libere, ridere, per non uccidere, incide su quello vivere, ma espressioni liriche danno, forza rime che stanno contro quelli che fanno, i belli avanti poi hanno, a dire ridire fanno danno. Ti do lezioni di skills, quando un pugno il microfono, lo fai o no, tu non lo fai o no, ti do lezioni di ritmo, sopra un beat come al solo. Tu lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no, tu non lo fai o no. Jolly cori nel tuo sentiero terreno, giorni trascorsi, trascorsi di morsi, morsi, sforzi e veleno, gelo, cielo, davvero scheloso, provi a provare stile sereno, vedo dietro, dentro, teatro, di pupazzotti che non lo fanno davvero, di menate, di provate, disperate, di scherzate, di che fate, di isolate, desolate, deportate, asportate, rime, stile che non incina a strafare, fuori luogo come l'assassino che piange al tuo funerale, vuoi fare la furia come il cavallo del West col microfono, noi siamo cavalli da rap e viaggiamo nell'ipodromo, noi siamo al solito, spingo il monitor, ma come al solito, qui non capisci un cavolo. Ti do lezioni di skills, quando un pugno il microfono, lo fai o no, tu non lo fai o no, ti do lezioni di ritmo,